Ben ritrovati e ben ritrovate alla fuga del gatto del nostro fantastico Wombat che si fregia di fare la radio. E sempre la fuga del gatto in ritardo perché ci facciamo riconoscere. Avevamo deciso di iniziare alle 6 e giustamente abbiamo iniziato alle 6 e mezzo. Vabbè, però è un Vabbè, ritardo preciso, cioè un ritardo comunque spaccato. Cioè le 6:30. Infatti, potevamo anche bleffare e dire: ma no, ma sarei detto le sei e mezzo, Invece no? siamo oneste come sempre e soprattutto a Pasqua, vi dirò. Soprattutto La alla Santa Pasqua del Pasqua. Wombat, che poi lui bazzica anche in zone isola di Pasqua, per cui vedi tutto torna. E così io me lo immagino, invece del coniglietto noi abbiamo il Il Wombat Wombat che ci porta Pasquale. gli Dio, che ovetti. bella Mi immagine. piace, è bella il Molto Wombat di bella, Pasqua. molto bella, infatti. E oggi, giustamente, boh, no, in realtà non è che veramente l'abbiamo fatto apposta. In realtà abbiamo rimandato questa puntata per un bel po', ce l'avevamo pronta nel cassetto ed è capitata a Pasqua, però in un certo verso, per un certo verso ci sta Ci tutta. sta. Perché oggi facciamo per il ciclo le soap opere. Ci vuole, no, vabbè, ora d'ora in poi si organizza. Io voglio le musichette, quelle tipo Ta-ta. soppop. Un po' di stacchetti ci vorrebbero, Sì, gli stacchetti ce li procuriamo. stacchetti e qualche sigla, O sì, qualcuno gli ce li fa applausi attivamente. finti, sì. Esatto. E perché per il ciclo appunto le soap opere, oggi vi parliamo, vi raccontiamo e vi facciamo anche un po' ascoltare il flauto magico di Wolfgang Amadeus Quindi Mozart. è andata bene, è Pasqua e vi è andata bene, perché insomma Sì. vi poteva andare parecchio peggio, secondo me. Direi proprio di sì, e in ogni caso è il nostro modo appunto di raccontarvi lo scontro tra religiosità e illuminismo, potremmo dire così, ma in realtà insomma ben altro, e ve lo narreremo nei prossimi minuti. E allora, ci addentriamo subito? Allora, sì, beh, vorrei ringraziare l'ospite in studio, che Abbiamo un comunque, ospite cioè, oggi, silenziosa. attenzione, l'ospite in studio, che è la Sì, Marghe, comunque gli che abbiamo tolto il terzo microfono, quindi è, anche volendo non esatto, può dire poverina, ma niente. poi glielo, vabbè, Può se urlare. vuole, poi farà un intervento. Sì. E quindi grazie all'ospite in studio, siamo molto onorati. E sì, il flauto magico, titolo originale, Die Zauberflöte. Allora, io l'ho detto di sicuro sbagliato, però Facciamo un prendetevi così. disclaimer all'inizio. Per Esatto, tutta brava. questa puntata parleremo un tedesco orribile. Sappiatelo, scoprivatelo, accettatelo, perché è così. E il flauto magico, chiaramente, del celeberrimo, buon vecchio Wolfgang Amadeus, Wolfie. detto Wolfi per gli amici, e sul libretto di Emanuel Schikaneder, proprio ve lo dico come lo leggo. E contributo di Carl Ludwig Giesecke, andato in scena la prima volta il 30 settembre del 1791 a Vienna. Ora, veramente è un'opera che ha bisogno di poche presentazioni perché è l'opera più famosa di Mozart e una delle più famose di sicuro, insomma, però ecco, rimane proprio nell'immaginario anche dei non esperti. E in generale è una delle opere più famose non italiane, non in lingua italiana. Perché come Il ratto nel serraglio, di nuovo un'opera in tedesco. Beh, diciamo questo, in tedesco e non è un caso, perché il flauto magico, come appunto altre opere di Mozart, ha tutta una serie di simboli, connotati e significanti legati insomma, alla storia dell'autore e alla sua idea, alle sue idee piuttosto illuministe, Sì, diciamo. lo Quindi, dobbiamo dire subito, diciamolo sì. subito. Vabbè, era massone. Leviamocela, dai. Che all'epoca non era una cosa brutta, No, tra diciamo. l'altro anche il librettista, cioè in realtà anche Manuel Schikaneder, quello lì, o come si dice, Sì. anche lui Beh, sì, beh, era un massone, diciamo che insomma. siamo in periodo appunto 1791 a pochissimi passi dalla Rivoluzione Francese, quindi in pieno illuminismo, e anche se non siamo in Francia, ma siamo in Austria, e chiaramente questo è imprescindibile, insomma, non si può prescindere dal contesto storico, no? Questa opera, molto più di altre, è influenzata da tutte le idee dell'illuminismo. e della massoneria, quindi tutti i concetti appunto dell'esoterico, e qui il nostro schiavo ora non c'è, ma è felicissimo, e, del giusnaturalismo, della ragione, del rapporto armonico con la natura, del ciclo della vita e della morte, cioè tutti questi concetti chiaramente vanno a influenzare questo artista che, appunto, forse una delle rare occasioni in cui l'opera si stacca un po' dai temi classici, no? Dell'opera all'italiana, dell'opera francese, quindi, della soap opera, sì, proprio della soap opera, no? Delle storie d'amore, della storia tragica, e va un po' entra nel territorio del fantastico, dell'esoterico. Chiaramente sono simboli, sono metafore, no? Per dire altro, però è veramente una delle rare volte che succede, e succederà poi dopo soltanto di nuovo, forse molto più avanti nel tempo, con Weber, il francocacciatore, e poi con Wagner in maniera diversa. Però, infatti, penso l'abbia influenzato un po'. Sì, perché appunto questi temi sono, quest'opera è particolare proprio perché i temi sono particolari rispetto al contesto del periodo e di quello poi che verrà. Quindi è interessante per questo. Tantissime sfaccettature, tantissime chiavi di lettura, appunto abbiamo detto il fiabesco meraviglioso, tipico del Settecento, quindi il flauto dalle proprietà magiche, le apparizioni animali, i geni, la montagna che si aprono svelando sale nascoste, quindi questo apparato del fantastico, no? L'apparato appunto dell'illuminismo, del naturalismo, del rapporto tra l'uomo e la saggezza, all'elevazione di sé, e i caratteri massonici, quindi il rito di iniziazione per accedere ai misteri, alla luce, l'invocazione della divinità, in particolare qui Egitto, perché si vedrà che si parla dell'Egitto, i seguaci appunto del mago Sarastro, la simbologia con riferimento alla numerologia, e poi anche oltretutto l'elemento che leggo, perché ovviamente non è che lo so a memoria, però del Kasper, cioè l'elemento comico popolare viennese delle figure del semplice, no? Dell'opera buffa, del naturale, della naturale bonarietà del popolo, diciamo, un po' del poveretto, un po' poveretto nella figura di Papagino, che poi vedremo. Sì. Quindi ecco, questi sono così a grandissime linee i temi base di quest'opera, che però danno poi adito a tantissimi livelli, a tantissime chiavi di lettura, e non è un caso che quest'opera poi venga interpretata nei secoli sempre in maniera diversa, sempre, no, non rimane mai, come dire, fissa. È un'opera piuttosto che si apre a tantissimi tipi di interpretazione. Sì, perché ogni epoca poi la legge. E anche ha una banalizzazione, spesso purtroppo viene presentata come la favoletta. Direi più nel passato, adesso per fortuna questa cosa è un po' finita. Però sì, un po' la favoletta facile, che tutt'altro, insomma, direi. Esatto, e infatti, per esempio, un esempio di interpretazione già a breve dalla sua uscita, quando ci fu la rivoluzione francese, poi tutto l'illuminismo rivoluzionario, per esempio, lesse certe figure come simboli dell'ancien regime, tipo la figura della regina della notte, appunto veniva assemblata all'ancien regime, alla nobiltà decadente, e veniva letta così. Ecco, sì, molto più politica come lettura, esatto, sì. Perché era in quel momento la visione era quella, poi è anche un po' cambiata nel tempo, insomma, le chiavi di lettura sono diventate diverse. Sì, la regina della notte era l'ancien regime, e Sarastro era l'illuminismo, esatto, che portava la ragione. Però appunto è anche abbastanza tagliato con l'accetta, sì. Cioè, è un'interpretazione palesemente appunto forzata, sì. Più che altro proprio contestualizzata al periodo storico. E quindi, insomma, viene letto come racconto, appunto, a volte come racconto massonico, come storia da contenuto illuminista, addirittura, appunto, abbiamo detto della Rivoluzione Francese, ma in realtà poi è anche un po' una storia di formazione, lo sviluppo dell'individuo, no? Che parte da giovane, no? Ignorante e debole, diventa poi piano piano attraverso le prove, e questa è un po' la struttura, insomma, come dire, che si rifà alla tragedia greca, poi insomma alla, no? Sì, perché infatti è molto meno schematico, cioè meno probabilmente nell'interpretazione che gli voleva dare Mozart era un qualcosa che si rifaceva non soltanto all'illuminismo classico che abbiamo in mente, certo, dell'uomo, ma anzi, appunto, c'era un continuo contrasto tra l'uomo illuminista, l'uomo invece naturale, sì, più frutto della cultura umanistica, dell'umanesimo, del mondo rinascimentale. Esatto. E quindi, infatti, insomma, le figure anche di Papageno è centrale, non è così un personaggino buttato lì per far ridere. In realtà è la duplicità dell'uomo stesso, cioè le varie sfaccettature dell'uomo, esatto, e non solo la componente razionale che invece interessava di più agli illuministi rivoluzionari, diciamo. Quindi è insomma molto più complesso, e insomma il bello e il geniale di Mozart. Sì, e poi anche questo doppio che torna sempre, no? Ora, per tornare sempre anche alla numero, però il doppio dell'aspetto umano, no? Il raziocinio e la naturalità, il doppio dei regni, due regni, no? Quello della notte e quello di Zarastro. E quindi di nuovo sempre lo specchio, no? Papaghino, papaghina, Tamino e Tamina, cioè sono sempre c'è sempre questa dualità che poi è di nuovo il bene e il male, la luce e il buio, no? E che più ne ha più ne metta, però ecco, l'uomo che poi deve servire i due padroni, no? De decidere da che parte stare, decidere qual è la giusta, sì, la giusta via. Io ce l'ho anche col numero 3, cioè ecco. No, questo era il 2, quindi cioè, poi si va al passando 3, al 3, sì, c'è un sacco di cose sul 3, perché per i massoni comunque era il numero perfetto, non solo per loro, insomma era facile, però sì, ad esempio c'è il famosissimo Overture, ora la sentiremo, che inizia con 3 accordi molto molto potenti, molto incisivi, che vengono ripetuti per 3 volte e si sente, ed è una cosa che non puoi ignorare, diciamo. E in questi 3 accordi ripetuti 3 volte predomina un colore, un timbro formato da 3 tromboni, che comunque è una scioglilingua, comunque, sembra i 3 tromboni entrarono a Trento, sì, va bene. Bene, come siamo bravi a fare radio, niente, veramente. E poi vabbè, c'è una fuga e che ritornano i 3 accordi, poi lo sentiremo. Il tema musicale ritorna di nuovo 3 volte, il tema principale, ci sono 3 damigelle che sono quelle un po' a seconda della rappresentazione, sono le 3 serve della Regina della Notte o le 3 ancelle o le 3 damigelle, insomma comunque erano 3. E poi ci sono i 3 genietti oppure i 3 fanciulli a seconda di 3 sacerdoti, sono di nuovo 3 i templi, il tempio della natura, quello della ragione e quello della saggezza, e poi ci sono le 3 prove, vedremo, che Tamino deve superare per purificarsi e per vincere, esatto. E quindi insomma, sì, ce anche l'aveva col 3, non solo col 2, era così. E chissà quanti altri numeri che noi non sappiamo. Numeroni, che però qualcuno di sicuro ora qui ne faragi ne, ci dirà. Ne sa. Sì, di nuovo poi lo sviluppo è sì, appunto, come si diceva, orizzontale, sia verticale, verticistico, perché oltre alla contrapposizione dei due regni, la storia si può leggere anche in un'ottica proprio di contrapposizione basso-alto, cioè tra il potere e l'autorità, i regni e questo sottomondo popolare un po' semplice, un po' naturale, rappresentato di nuovo dal personaggio di Papaghino. Quindi di nuovo c'è questa contrapposizione tra il concetto di uomo animale allo stato naturale e l'eletto aristocratico, no? che fa questo percorso e che affronta Tamino. Quindi di nuovo una lettura sempre, cioè, multistrato, perché comunque si può leggere anche in questo senso qui, questa sì, doppia appartenenza. Sì. Per esempio, quindi ci sono mille, veramente, ne sono state date 1000 interpretazioni. Beh, anche perché è densissima di cose. Densissima di cose, per un sacco di personaggi, di momenti. E tra l'altro al proprio interno, poi lo vedremo via via, durante gli ascolti, ci sono proprio tante forme musicali. cioè non è un'opera che ha, no, sempre la stessa, che ripete più o meno sempre lo stesso canone, ma presenta al proprio interno tante forme mutuate dall'estetica musicale di altre opere. Per esempio l'Ouverture, che ora ce l'abbiamo come ascolto, sì. È il tema, riprende il tema principale della sonata in si bemolle di Muzio Clementi. Quindi insomma, ecco, per esempio fa questa citazione e che poi va anche un po' verso l'uso di certe caratteristiche dell'ouverture francese. Per esempio. Sì, l'ouverture poi aveva questa cosa strana che normalmente l'ouverture era classicamente usata un po' per attirare l'attenzione, no? Un po' come viene fatta anche, io penso, sì, a chi suona anche in una musica classica, cioè te fai il concerto, il primo pezzo è quello sacrificabile, è quello, perché quello, la gente deve iniziare a entrare, cioè tutto, poi a teatro nel 1700 c'era un casino, sì, e quindi io mi immagino, c'erano tutte le damine che dovevano entrare, tutte lì con i cicisbei, un casino, gente parlava, loro iniziano a fare l'ouverture e la gente inizia a fare, ah ok, sta iniziando, e piano piano si siedono e tutto inizia. E quindi diciamo che l'ouverture era un po', sì, vabbè, bella, però era un po' così, buttata lì, e poi si iniziava veramente con il primo atto. Mozart fa il contrario, subito sbaraglia tutto, perché l'ouverture è fondamentale, è importantissima, e già dai primi accordi, fra l'altro l'ouverture è stata scritta 2 giorni prima della messa in scena. Lui era un ragazzo, cioè, un po' come noi, arrivava sempre all'ultimo. Ma che i geni sono così, così che vuoi è fare? Che vuoi fare, d'altronde, non è che il tempo è un concetto relativo. O gli autistici, che... poi a seconda sì, di come... E quindi sì, è subito incisiva, subito dai proprio i primi 3 accordi, come si diceva prima, già ti sbaraglia tutto e mantiene l'attenzione subito. E va avanti, e già nell'ouverture c'è una specie di piccolo riassunto di quello che andremo a sentire poi, perché ad esempio, ora è vero, qui ci si inoltra nelle interpretazioni, ma chissà se poi alla fine era così, però una delle interpretazioni che viene data leggendo proprio la partitura è che ad esempio dalla battuta 8 alla battuta 13 ci sono queste 3 brevi frasi affidate agli archi, ora lo sentirete, che 2 di queste terminano in un modo un po' mesto, un po' dimesso, un po' triste in qualche maniera. L'ultima invece finisce con un accordo limpido, luminoso, vittorioso in qualche maniera. Questo è stato interpretato come un Mozart che ci voleva in qualche modo già far vedere quello che sarebbe stato lo sviluppo dell'opera, ovvero Tamino che prova a entrare nel tempio della natura e nel tempio della ragione, non ci riesce perché ancora non si è purificato, lo vedremo poi dopo nello sviluppo dell'opera, e poi alla fine vince. Giustamente il 3 sempre, dopo 3 volte, la seconda, la terza vince. Buona terza. Quindi insomma l'ouverture già era importante, non è che proprio potevi stare lì a prendere il tè senza, era già Questo è indicativo, è molto giusto, perché questo c'è anche, non so se ve lo ricordate poi, il film di Amadeus di Forman. Se no potete risentire il nostro lungo podcast. Se no potete sentire il nostro fantastico podcast su Mozart, Mozart contro Salieri. Sì. Perché Mozart aveva questa proprio questa intenzione, questa tensione a scardinarsi un po' da quella che erano, no, l'opera classicamente intesa in quel momento, quindi quella francese, quella già in parte quella italiana. Cioè lui si vede proprio anche infatti nel film, questo aspetto è spiegato piuttosto bene, quest'animo un po' avversivo, no? questo genio che cerca di spingere in avanti, infatti questa volontà di avere un'opera in tedesco non è casuale, nel senso che lui voleva e anche nelle strutture delle sue opere, per quanto rientrino nella struttura della musica classica e dell'opera in genere, però c'è sempre un po' questa tensione evolutiva, no? È molto molto in avanti, proprio perché come tutti i geni poi era molto più avanti e quindi sentiva l'esigenza poi di creare delle opere che sì, fossero accettate dall'establishment, che poi anche pure a tratti a momenti, però che fossero poi molto diverse, in realtà, alla fine fine diverse da tutte quelle del suo periodo. Non a caso lui poi è stato amato e ripreso anche da autori proprio molto, molto dopo nel tempo, e proprio per questi motivi qui. Eh sì. Per cui di nuovo, sì, ecco, di sicuro Mozart era sempre un po'... Ecco, cercava sempre un po', seppure in quell'ambito ovviamente, c'erano opere sempre che passavano al vaglio dell'imperatore, della corte, quindi ovvio. Però appunto nel film questo aspetto si vede molto bene, e soprattutto riferito a queste opere qui, sia Ratto nel serraglio che Flauto magico, che era già scandaloso che fossero in tedesco, perché l'opera non era concepita in tedesco, ma in italiano, in francese. Che perché poi le povere conduttrici della Fuga del Gatto non riescono a dire bene tutti i nomi, quindi dalle. Però sì, io direi... Sentiamoci che l'ouverture a questo punto. L'ouverture e poi... Poi vi raccontiamo tutta la trama. Perché... E vi raccontiamo, entriamo nella soppopera. Però prima sentiamoci l'ouverture. Questa registrazione è del 1996, della London Classical Player, e il direttore è Roger Narrington. Questa è l'ouverture. Forse. Se parte. Ce la possiamo fare. Mica, era bello. Mica male. Eh sì, questa era l'overture e adesso possiamo un po' iniziare a raccontarvi, beh, innanzitutto dei personaggi, come funziona nelle soap opera che, che si rispettano. Personaggi principali. Sì, personaggi principali, direi Tamino. Tenore lirico. Ecco, sì, sì. Ok. No, ti facevo da contraltare. Perché, sì. Vai con Tamino. No, dicevo soltanto tenore lirico, ma poi lascio a te l'onore. Il protagonista, no, in realtà io mi ero concentrata su Pamina, quindi mi sono persa. Tamino è il protagonista, appunto il giovane che viene iniziato, che fa questo percorso, che deve affrontare queste prove. E lui è il primo, entra lui per primo, è quello che si vede, che diciamo rompe il ghiaccio, ed è il primo personaggio che vediamo quando finisce l'overture. E essenzialmente lui entra in opera, cioè nell'opera, e ci sono questo giovane, che poi lo vedremo insomma nello svolgimento dell'opera, e è un personaggio essenzialmente... Come si può descrivere? È un tranquillone. Sì, più che altro appunto è un po' così. Si ritrova un po' buttato nel mezzo. Sì, è un po' tirato per i capelli, purino. Come diceva appunto la Margherita prima, per il classico personaggio delle fiabe, no? Che così, un po' da sprovveduto, è proprio un po', ecco. Non è l'eroe classico quello. No, lui, a cavallo, Porino, si faccia fatti suoi e poi viene buttato in mezzo. Si ritrova in questa situazione, suo malgrado, per salvare deve lei, fare tutta una serie di cose che vedremo. E a un certo punto si innamora di Pamina. E qui Pamina, secondo personaggio, esatto, Pamina, sì. Allora, soprano. Tamino e Pamina sono nomi di origine egiziana, derivano da Tamin e Pamin. Cioè serva e servo del dio Min, antica divinità dell'Alto Egitto, protettore della fecondità e della fertilità. Quindi già di nuovo qui c'è un altro rimando ancora a un altro aspetto, che è quello dell'Egitto, inteso però un po' appunto come mistico, come luogo lontano e credo più e che denso proprio di significati, esatto, sì. Legato poi a tutta questa cultura della morte, della vita dopo la morte. Pamina Soprano è una giovane principessa, figlia della regina della notte, che è un altro personaggio che vedremo, innamorata di Tamino, e quest'ultimo la salva dalle forze del male, e tenta di salvarla insomma durante l'opera dalle forze del male. Esatto. E quindi lei è l'altro personaggio, insomma, poi il corrispondente. Poi abbiamo quelli simpatici. Simpatici. Papageno. La spalla simpatica, che in realtà è insomma una spalla fino a un certo punto. Papageno che è un baritono normalmente, ma... Baritono, mi spiegavi, perché io questa cosa la ignoravo, che non esistevano ho i baritoni. Ho letto, sì, che fino non erano più in auge, diciamo, in quel periodo, e quindi tutta la parte del baritono si faceva fare a, non vorrei dire una castroneria, ma a, si scriveva per un... In chiave di basso, mi dicevi. Sì, per un tenore in chiave di basso. Sì, ecco. Quindi vuol dire che essenzialmente un tenore che normalmente è un registro molto, registri molto alti rispetto a una voce maschile, che però scritta in chiave di basso vuol dire che è comunque un tenore che deve affrontare una tessitura molto, molto bassa. Sì, infatti in epoca moderna, invece in epoca contemporanea, il personaggio è affidato di nuovo a un baritono. Quindi ecco, poi che ritorna, è più semplice, sì, dai, però all'epoca mettiamoci si vede che il baritono non andava, non mi andava più, era passato di moda e quindi non gli piaceva. Sì, ed è allora è bellissimo perché in italiano viene tradotto uccellatore, che penso insomma... che sia un termine che non si usa più dal 1563. Beh, però sai come alla vecchia, noi poi siamo amici dell'Accademia della Brusca, esatto, e quindi allora... diciamo uccellatore. Infatti, colui che caccia, procura e irretisce uccelli. Esatto. Lui che appunto, è al servizio però del regina, della è regina della notte. È al servizio della regina della notte e suona, appunto è emblematico, lui suona proprio il flauto di Pan, suona questo strumento a cinque canne ed è alla ricerca di una donna da amare, cioè sì. Una come lui, perché in realtà... lui sì, funge da aiutante nei confronti di Tamino, al quale dice, mentendo, di averlo salvato da un serpente, che non è vero, vedremo, che invece appunto vedremo da chi verrà ucciso poi, All'inizio dell'opera appare come un bugiardo e un codardo, ma in seguito si rivela, insomma, di buon cuore e saggio. E soprattutto è la parte, non, perché non solo è un lavoro, appunto, è un ragazzo, insomma, che lavora nella selva, ma lui stesso spesso è rappresentato proprio in forma antropomorfa, anche di mezzo animale, fondamentalmente di uccelli. Sì. Cioè c'ha questa gabbia sulle spalle in cui tiene gli uccelli, però ci sono delle rappresentazioni a volte. Sì, perché lui molto spesso è colui che deve irretire in qualche maniera gli uccelli, quindi si traveste egli stesso, esatto, da uccello, e quindi facendo, però, richiami, eccetera. Sì, insomma, diciamo, si avvicina anche alla figura un po' del satiro, un po', certo, del mezzo uomo, mezzo animale, certo, no? Certo. Nel film, Amadeus, mi diceva giustamente prima la Marghi, infatti, siccome nella prima di questo spettacolo, di quest'opera, è il librettista, il famoso ormai Schikaneder, interpretò Papagino, infatti nel film Amadeus si vede che loro, appunto, collaborano al libretto e poi lui interpreta Papagino, era proprio lui, insomma, quello che ha scritto il libretto. Sì. E non a caso è una delle parti più interessanti, forse, proprio, sì, perché è nient'altro che assolutamente non marginale. No, anche perché rappresenta proprio l'altro polo, che è quello, appunto, come si è detto, della natura, no? Sì. E anche del popolare, cioè della comicità, quella proprio del popolo, quindi poi che si rivela sempre furba alla fine. Insomma, e saggezza, onesta e saggia, il working class hero, insomma. Allora, e poi Papageno, e poi c'è Papagena, il contraltare femminile, esatto, un soprano anche lei, tra l'altro buffamente molte rappresentazioni, soprattutto moderne, in realtà sia Papageno che Papagena vengono fatte, ma anche Tamino, in realtà vengono interpretati da vari attori, cioè vari cantanti, non necessariamente è sempre un solo cantante durante tutto il pezzo, cioè durante, sì, tutta l'opera. Ah, okay. E a volte Papagena, perché poi lo vedremo, Papagena all'inizio non compare tanto, poverina è un po' relegata, però all'inizio si traveste da vecchia e poi si scopre che è più giovane, e, insomma, ci sono varie scamotage, e molto spesso a volte è un'unica cantante che poi si leva i vestiti e si scopre essere giovane, e invece altre volte sono proprio due cantanti diversi, esatto. Però sì, lei è anche, infatti, lei la prima volta si traveste da vecchia. Sì, per presentargli, sì, sì. No? Lo vedremo. Lei è comunque anche è proprio il contraltare di Papageno. È una, anche lei, una uccellatrice, ma era pieno, tra un mestiere che andava a bestia. Meno male, insomma, ora non ci sono i più maliziosi, se no qui. No. E comunque era una cosa che, sì, se eri disoccupato, se andava, facevi quello, andava a bestia. È un periodo che andava. E vabbè, e niente, poi lei ha un ruolo abbastanza minimo, dobbiamo dirlo, perché è un po' la promessa. E tra l'altro, tra loro Papageno due, e ciao. Esatto, la promessa dell'amore, appunto, a lui. E tra l'altro è bellino perché hanno questo tra loro due, proprio come un richiamo tra un uccello e un altro, no? Si chiamano, appunto, c'è, cioè, questa specie di richiamo. Poi vedremo, sì. Molto, molto, l'aria molto carina. Più che altro che ti resta in testa, maledetto. Sì, perché era molto bellino proprio per assomigliare il più possibile al mondo animale, no? Si chiamano vicendevolmente proprio come gli uccelli. Sì, poi c'è il vecchio Sarastro, che è un basso profondo. Basso profondo, il cui nome allude al profeta persiano Zoroastro, quindi, insomma, infatti a volte chiamato anche Zoroastro. All'inizio viene dipinto un crudele tiranno, poiché ha rapito Pamina, lo vedremo, ma egli dichiara di averlo fatto per proteggerla dalla madre, che lui definisce superba, che comunque sono offesone alla fine. Eh sì, e poi l'astre fiammante regina della notte, invece l'astre fiammante. Sì, questa cosa dell'astre fiammante è bellissima. Quest'ultima, appunto, minaccia Pamina durante una famosa aria, e poi sentiremo, e appunto la regina della notte. Parliamone, la strifiammante, che è un soprano di coloratura, e vabbè, chi non conosce la famosa aria della regina della notte, sì, anche se sassi, non lo conoscete, vabbè, fate schifo, ma ve lo faremo, colmeremo come tutte le domeniche queste vostre ignobili lacune, e è un soprano di coloratura, e insomma un po' ce ne va per fare quest'aria, lo sentiremo. Eh sì, perché qui c'è tutta una cosa legata a questo cerchio settemplice solare, che Harry Potter non si è inventato niente, ma anche lui vorrei dire non si inventa nulla, ma davvero. perché appunto c'è tutta una diatriba tra lei e Sarastro, e sono appunto i due principi, e questo cerchio settemplice solare che protegge Sarastro e i suoi discepoli, insomma lei lo vuole, e insomma lo vuole recuperare per dei motivi, sì. Poi vedremo, e quindi c'è tutto questo scontro appunto, no? E anche qui di nuovo però niente come sembra, no? Sarastro all'inizio sembra cattivo, per realtà boh, non lo è, lei, insomma non è, i personaggi sono abbastanza sfaccettati nonostante siano personaggi di fiaba, no? Comunque sì. Poi ci sono un po' i personaggi un po' minori, sì. Diciamo, anche se insomma poi ne fanno di cose, però sono un po' minori, che sono Monostatus, tenore anche lui, ed è il moro, cosiddetto, come si diceva ai bei tempi, che insidia Pamina per costringerla ad amarlo. E poi ci sono le tre dame, come si diceva prima, dame, fanciulle, damigelle, ancelle, boh, a seconda di come la volete vedere. E sono, vabbè, sì, le tre donne che accompagnano la regina della notte. Salvano il principe Tamino, poi lo, sì, vedremo, poi, perché sì. Si innamorano di lui. E poi ci sono i tre genietti, che i sono... I tre fanciulli. Anche qui, insomma, negli ultimi decenni sono stati interpretati da voci bianche, quindi da bambini. Essenzialmente prima venivano fatti da donne, anche sì, molto spesso da tre soprani, però ultimamente si tende a tornare un po' alle origini e a farli interpretare da bambini, il che è anche buffa come cosa, esatto. Non si vede spesso all'opera. E sono tre ragazzini, diciamo, fanciulli. I fanciulli che guidano genetti. Nel viaggio Tamino e Papageno e via via, e guidano anche Pamina, insomma, lo vedremo, e insomma sono un po' una specie di tre puttini, di tre angioletti, anche se non sono tutt'altro che cristiani, anzi parecchio pagani, e però sì, assistono un po' i nostri eroi nel corso dell'opera. Riusciranno i nostri eroi, e lo vedremo. Lo vedremo. Scrivatelo. Iniziamo subito. Perché insomma, la trama è densa di eventi, non è che insomma. Sì, allora, come inizia? L'overture l'abbiamo visto, sì. Inizia con Tamino in scena che grida aiuto perché è inseguito da un enorme serpente. Sì, che qui dice il serpente, perché il dragone, sì, viene chiamato dragone, ma in realtà è una serpente volante, non si è capito, un aggeggio, insomma. E al momento di essere raggiunto sviene, perché insomma, come abbiamo detto, è un ragazzo un po' così, un po'. E giungono appunto in soccorso le tre dame della regina della notte, che abbattono il serpente con le loro lance d'argento, e anche qui Wagner ci è andato a nozze, perché insomma tra le valchirie, astri fiammanti, ondine, insomma mi sembra che Wagner ci abbia riferito a man bassa, e appunto abbattono il serpente e salvano Tamino. Sì. Lasciano poi a malincuore il bel giovine per recarsi dalla regina a informarla. Esatto. E questa è proprio la prima scena proprio, no? Dopodiché entra in scena Papaghino, il buffo appunto uccellatore vestito di piume, che suona il suo flauto di Pan. E quando Tamino riprende i sensi, si vanta di essere stato lui a uccidere il dragone. Dice, esatto. Sì, ti ho salvato io. È a posto. E ci sentiamo l'aria di Papageno, che è direi una delle più famose, insomma, anche questa, sì. È veramente inconfondibile, e che però già dà subito in questo anche un po' onomatopea, direi, ci fa capire il personaggio anche senza vederlo, insomma si capisce che carattere ha. Ce l'ascoltiamo, in particolare, allora dov'è che me l'ho scritta? Questa è, vabbè, no dai, non volete davvero che vi legga il nome dell'aria in tedesco? No, per favore, guarda, eviterei. Risparmierei, ecco. In italiano si dice uccellatore son io, che mi sembra più semplice. Già, insomma. Ci sembra più semplice. Che un po' memole il nome mio, sì, sì, assomigliava molto. Così. Questo qui è la filarmonica di Vienna che l'esegue, Carl Bohn dirige, e come baritono Papageno è Walter Berry. E sentiamocela subito l'aria di Papageno. Thank you. Ich Vogelfänger bin bekannt bei Alt und Jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und Minikas Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Vogelfänger bin ich ja, stets lustig heiß, hopp, sassa. Ich Vogelfänger bin bekannt bei Alt und Jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich will sie duzen, weiß für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Alle Mädchen wären mein, so tauschte ich brav Zucker ein. Die, welche mir am liebsten wär, da geb ich gleich den Zucker her. Und küsste sie mich zärtlich dann, wär sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite ein, ich wie ein Kind sie ein. Non è che potevate non conoscerlo, no? Cioè, no. Veramente, cioè, fatevi due domande se non lo conoscevate. Sì, infatti la risposta è dentro di voi, se non lo conoscete è quella sbagliata. Meno male c'è la Marghe che giustamente che è seria, che è una persona meglio, e ci dice che non abbiamo detto che Tamino in realtà era un principe. Ora non si è detto perché siamo ragazze e non ci teniamo a queste cose, però sì, siamo contro le classi, ragazzi, è un po' così noi, però di fatto va detto, cioè lui non è che era proprio cascato lì a caso, era un prence. Lo era. Era un prence, sì. Era un prence, e quindi insomma, sì, un po' così, un po' buttato lì, che non sapeva bene da che parte stava girato. Però era un principe, quindi insomma, come dicevi te, era un bel chiappo anche lui. Era un buon partito, e anche perché sennò non si spiega come mai la cosa va avanti, perché arrivano ste tre tipe. Allora no, qui non ci siamo capiti. Innanzitutto Papageno te ne hai fatto niente. Esatto. Non è che sei stato te a salvare il principe onorevole Tamino. Non ma, solo, gli chiudono la bocca con un lucchetto, che è una roba tipo un po' gore veramente. Sì. Cioè, gli chiudono, sì, un po' fetish. Gli chiudono la bocca con un lucchetto e mostrano poi a Tamino un ritratto della giovane Famina, figlia della regina della notte. Quindi egli, principessa anche lei. Esatto, diciamo che, se no, che tra tutti qui è. Ed egli resta colpito dalla sua bellezza. Ovviamente. Esatto. Sì. Preannunciata da un fragore di tuoni, fa l'ingresso in scena la regina della notte, che lamenta il dolore per la scomparsa della figlia Pamina. Eh sì. Ramina, no, Ramina, perché, Romina. No, anche. No, ecco, il gatto Ramino ci mette sempre la zampa, mi instilla i pensieri così, anche non volendo. Rapita dal malvagio Sarastro, Pamina appunto è tenuta prigioniera da un suo incantesimo e prega Tamino, la regina prega Tamino di andare a salvarla, per cui la regina l'ha già intortato, cioè lui si è già fatto intortare, ha visto la figlia e ha detto, vabbè, senza chiedere perché e per come, si è fatto ingaggiare. Senza però sapere appunto tutto quello che c'è dietro. Certo, chissà che cosa poi lo aspetta. E qui vi facciamo sentire subito un altro ascolto, che è un recitativo con a seguire, un recitativo breve, prometto, giuro, e a seguire l'aria, che no dai, non ve la dico in italiano, sì. O tremare non, io boh, vabbè. Non tremare, era più facile. Tremare non. No, tremare non, sembra un po' sardo. Vabbè. Vabbè. Tremare non, figlio prediletto, io sono condannato al dolore. Eh sì, perché come abbiamo detto prima, nell'opera ci sono diverse forme musicali, tra cui appunto avevamo detto anche i recitativi, quindi recitativi accompagnati secondo il modello di Gluck. Quindi, sì, ce n'ha diversi. Poi faremo una puntata magari una volta su Gluck, un altro famoso compositore al soldo di Maria Antonietta di Francia. Il periodo era quello, era proprio era stato insomma la corte viennese e poi lei si era portata in Francia. E anche qui appunto il recitativo accompagnato è un'altra forma, no? Così come l'aria, così come il corale, cioè sono varie forme che lui cita e utilizza all'interno della stessa opera. Sì, io devo dire, a me il recitativo non piace tantissimo, ve lo devo confessare, quindi cerco di non metterlo, va bene, sono di parte. E quindi qui però c'è un pochino si deve mettere, e però poi c'è l'aria a seguito che a me mi distende, cioè, perché comunque questo recitativo a me mi mette un po' male. Ecco, sì. E poi c'è un distensivo sull'aria. Questa versione che vi facciamo sentire, io ho trovato molta difficoltà, devo dire, io sono un po' una fighetta, lo ammetto, sul flauto magico ci tengo, e soprattutto le arie dei soprani, io non me ne piace una. È una ragazza che c'ha un po' di pretese. Lo so, ma sono consapevole che sono io, che è un problema mio un po' così. Però effettivamente ci mettono, se le caricano, soprattutto Pamina, Madonna, le caricano, non mi piace. E ecco, invece questa qui a me piace abbastanza, insomma, anche perché si tratta di un soprano non da poco, che era Lucia Pop. E forse ve l'abbiamo già fatta sentire, non mi ricordo se in quale occasione, ma insomma è un interprete abbastanza d'eccezione. E quindi io farei subito sentire la Regina della Notte con il suo intervento, dove appunto si lamenta con Tamino della sua sventura e del fatto che la povera Pamina gli è stata sottratta dall'ignobile Sarastro. Oh, dear. Molto bello, Lucia Pop, brava, brava bis. Veramente incredibile. E, sì, insomma, fighetta, ma lo dico quando ne trovo una brava, mamma mia. Incredibile. E quindi, eravamo rimasti appunto che la regina della notte si lamentava. Poi cosa succede? Arrivano, vabbè, sì, sarà detto, gli mettono sto catenaccio, sto lucchetto sulla bocca a Papageno. Sì, e ora mi sono un attimo persa. E sì, allora, quindi Tamino accetta di partire per questa avventura. E le tre dame gli fanno un regalo a Tamino. Esatto. Non mi ricordo se l'abbiamo già detto. No, mi sembra vabbè, no. Le slegano il lucchetto di Papagino, se non dov'ha, perché Papagino vuole andare con lui a liberarla, vuole aiutare sì, Tamino. Sì, non è che proprio stia contentissimo, però insomma diciamo che loro gli dicono, senti, vai. Infatti, e danno a Tamino un flauto magico che lo assista nell'impresa, appunto il flauto magico, da cui il titolo, e un glockenspiel, cioè una sorta di carillon fatato a Papagino, quindi ognuno di loro sì, riceve dei doni. Il glockenspiel, fra l'altro, è in realtà una sorta di metallofono, che poi lo sentiremo, è anche molto bello suonato. Sì. E lui lo suona anche, cioè è bellino perché lo suona nell'opera originale, non so poi nelle varie versioni, però lui lo suona in diretta, cioè sul palco lo fa, lo suona un po'. No, modernamente no, però... Lo fa l'orchestra, ovviamente, sì. Doppia, però è bellino, è come un livello interno dell'opera, cioè lui fa proprio il suono. Sì, e ognuno di loro quindi ha un po' un dono magico che li aiuterà nel viaggio a sconfiggere gli ostacoli. E si incamminano così verso il castello di Sarastro sotto la guida di tre fanciulli o genietti di cui sopra che ora sentiremo, perché appunto diciamo che il primo atto si conclude proprio con i tre fanciulli che li iniziano un po' il viaggio, quindi ok, adesso vi accompagniamo verso il viaggio. Esatto. E quindi niente, sì, ci ascoltiamo questo pezzettino, che è un'altra aria, che però a questo punto è un è composta da tre fanciulli, insomma i tre di qui sopra, e Tamino, le sentirete. Questa interpretazione è dell'orchestra della Royal Opera House, con vabbè i tre fanciulli. Dico anche i loro nomi perché poverini, se no non se li considera mai nessuno. No, sono Zico Shaker, Tom Chapman e Jenna Holland Avery, e Tamino invece Will Hartman. E sì, c'è questa aria che essenzialmente è il finale del primo atto, con questa aria che si intitola, si tradotta in italiano, è questo percorso vi condurrà alla meta. E ce l'ascoltiamo, dura pochissimo, 1 minuto e 52, e poi siamo di nuovo con voi. Sì. ihnen retten kann. Eccoci qua. Sì, qui c'è delle divergenze e non siamo proprio sicuri di aver detto delle cose giuste. Aiuto. Però va bene. No, che ci sono cose contrastanti sulla fine degli atti, ma noi a un certo punto ce ne frega niente, tanto si racconta la storia. Sì, anche perché io devo dire, e questo ancora non l'ho detto, pensavo di dirlo dopo, sì, ma lo dico ora, che io sono stata 3 settimane fa a vederlo. Il già non magico, se lo ricorda più. E non me lo ricordo, infatti è drammatica questa cosa. Perché la Mari si deve ricordare un sacco di cose, quindi lo spazio è quello che è la memoria interna. No, perché io effettivamente mi ricordavo che finiva così il primo atto, però ora mi fai venire il dubbio, potrebbe non essere vero. No, perché poi sono quadri in cui a volte la dicitura è primo quadro del primo, capito, secondo quadro del primo atto, va a sapere. Chissà. Comunque a noi non ci interessa tanto, la storia poi va avanti e va avanti, appunto, e loro arrivano a Pappagino. Arriva per primo al castello, penetra nella stanza dove il perfido Moro Monostato tiene la prigioniera Pamina, e alla vista reciproca Papaghino e Monostato si mettono paura a vicenda. C'è questo sketch comico, essendo uno vestito di fiume e il secondo un uomo di pelle nera, quindi si spaventano. Entrambi scappano via, ma Papaghino riprende coraggio, torna da Pamina informandola che il principe Tamino è innamorato di lei e che sta venendo a salvarla. Costei a sua volta lo rincuora assicurando il cielo, che il cielo manderà anche a lui una compagna. Non ti scoraggia Papaghino, che sì, cioè, già puoi fa. C'è una speranza per tutti. Esatto, e tentano la fuga, insomma, Pamina e Papaghino tentano la fuga. Nel frattempo Tamino, guidato dai 3 fanciulli, giunge di fronte ai 3 templi, intitolati rispettivamente alla natura, alla ragione e alla sapienza. Quindi qui proprio, insomma, siamo chiari, non è che c'è troppa, così, c'è troppa confusione. Respinto dai primi 2 templi, vede uscire dall'ultimo, cioè da quello della sapienza, un sacerdote egizio che gli chiede cosa stia cercando. Tamino risponde: amore e virtù. Eppure, capito, così, che cioè, non è che dice stavo ero qui, cercavo il 23 barrato, no, no. Amore e virtù. Eppure il suo cuore grida vendetta contro Sarastro. Quindi non è così, cioè, amore e virtù, però dentro il cuore c'è comunque un po' di così, non è proprio onestissimo. Il sacerdote, capovolgendo l'immagine di un Sarastro malvagio, sostiene invece che questo è un maestro di saggezza, il quale ha rapito Pamina per un motivo che resta oscuro però a Tamino finché appunto Tamino non si lascerà guidare dall'amicizia. Quindi di nuovo, no, deve passare da tutti questi livelli. Sì, è un po' un videogioco. È un po' così, infatti i videogiochi sono presi dalle favole. E quindi Tamino, sconcertato e disorientato, suona il flauto magico nella speranza di far apparire Pamina, e riceve in lontananza la risposta del flauto di Papaghino, qui il richiamo dell'amicizia, che sta fuggendo insieme a lei, perché tutto questo l'unico che ha salvato Pamina è comunque Papaghino. Vogliamolo ricordare, perché nel frattempo Tamino si sta a fare le pippe sull'onore e la virtù e cerca il 23 barrato. Nel frattempo Tamino 23A, quello basso, perché nel frattempo Papaghino, da bravo working class hero, si è tirato sulle maniche piumate e ha salvato la principessa. Quindi insomma, anche qui, boh, chi è l'eroe? Parliamone, chi è l'eroe? Capisci? Sì. Quindi siamo già sul Iside und Osiride, no? Sì, troppo presto, c'è ancora roba? Qui lui riceve appunto la risposta di Papagino e sta fuggendo insieme a Tamina dagli sgherri di Monostato, dagli sgherri, per sottrarsi alle loro grinfie. Papagino fa suonare il suo carillon fatato, perché a una certa andava usata sta roba, se no Glockenspiel. E Glockenspiel, e costoro per magia si allontanano, quindi continuano, insomma, continuano la fuga. Ma non fanno, insomma, non fanno tempo a essere contenti, e subentra Sarastro su un carro trionfale condotto da sei leoni, preceduto da un corteo di devoti. E qui c'è appunto il famoso corteo dei sacerdoti, quello che dicevi te. La marcia dei sacerdoti, sì, a cui poi segue l'aria famosa dei sacerdoti con Sarastro. Esatto, Pamina le confessa di aver tentato la fuga per sottrarsi alle insidie di Monostato, al che Sarastro, con fare paterno, le spiega che per il suo bene, per il tuo bene, non la vuole restituire alla madre, donna che appunto per lui è pecca di superbia. Catturato da Monostato, Tamino viene successo, perché in tutto questo Tamino è riuscito a farsi beccare, cioè proprio a farsi bere in un attimo, niente. Viene successivamente condotta al cospetto di Sarastro. Ora Tamino e Pamina si incontrano per la prima volta e subito si amano, perché quello ormai era così. Contro ogni aspettativa, Sarastro fa punire Monostato e libera Tamino, informandolo che se vorrà entrare nel suo regno con Papagino dovrà superare 3 prove. Esatto. La trama si infittisce. E la trama si infittisce, e noi ci ascoltiamo l'aria appunto di cui si diceva prima, l'aria dei sacerdoti insieme a Sarastro, Oisis und Osiris, questo lo so dire. Bravissimo. Oiside e Osiride, in questa interpretazione del 1955 di questo famosissimo basso, super basso, che è Gottlob Frege, che effettivamente, insomma, ha le sue ragioni, è un signor basso, direi. Un signorone. Ascoltiamocelo. Tour. questo era l'amico Gottlob. Il vecchio Gottlob, che non gli è andata benissimo a nomi, eh. No, la gente no. Si lamenta che si chiama, non lo so, Mario. Azzurra, però insomma, vabbè. Gottlob gli è andata maluccio. Però gli è andata bene a estensione in vocale, carriera, perché insomma. Sì, è un ragazzo, ci sapeva fare. Proseguiamo. Sì, proseguiamo. La scena riprende in un boschetto di acacia. Fatti fermi nel boschetto di acacia. Dove al centro si erge una piramide. E dai, e qui ci siamo proprio alle piramidi. Oh, era l'ora. 18, e di nuovo dico 18 sacerdoti marciano con passi solenni guidati da Sarasto per preparare il rito di iniziazione per l'ingresso dei nuovi adepti alla loro confraternita. Sarastro rivela di aver rapito Pamina poiché destinata dagli dèi al nobile Tamino. Eh sì, vabbè, e lui manco l'aveva visto Tamino. Ora va a finire che lui l'aveva rapito, guarda caso, aveva rapito lei per Tamino. Vabbè, dai, Sarastro. È così, eh? Vabbè, così. Però... siamo tutti scemi. Pronuncia quindi un'invocazione a Iside e Osiride affinché assistano, e questa era quella appunto che avete sentito poi l'aria. Spiritualmente Papagino e Tamino nelle dure prove che li attendono, perché comunque è una gioia, qui ancora non ci siamo. Terminata l'orazione, i due sono fatti entrare nel vestibolo del Tempio della Saggezza, dove vengono privati di ogni possesso e interrogati da due sacerdoti circa le loro intenzioni. Tamino risponde di voler cercare l'amicizia e la conoscenza e la saggezza. Papagino vuole un panino, probabilmente. No, invece preferirebbe una donna da amare. Lo vedi, a Papagino ce l'ha nel bagaglio, e di fatto Papagino è un po' più terreno, si fa donna, no vabbè, ho capito adesso... l'illuminismo, sì, però la natura, insomma, io sono qui e io lo capisco. Entrambi iniziano quindi la prima prova, dovranno stare in silenzio qualunque cosa accada. Riappaiono le tre dame e cercano di dissuaderli dall'entrare nella confraternita, mettendoli in guardia dai falsi sentimenti dei sacerdoti. Tamino tuttavia non cede, qui di nuovo, no? C'è tutto appunto chi è il buono, chi è il cattivo, la regina dice la verità, non la dice Zoroastro, insomma ci sono tutte le volte delle opinioni contrastanti, non si sa mai, perché probabilmente appunto il bene e il male in realtà non sono concetti così semplici, non è tutto così chiaro, e infatti il nostro Tamino se ne sta accorgendo, perché qui ogni volta cambia banda e sembra che insomma la ragione sta qui e di là. Nella scena seguente, Monostato si avvicina furtivamente a Pamina addormentata in un giardino notturno. Vorrebbe baciarla, ma spaventato dall'arrivo di Astre Fiammante. Insomma, chi non sarebbe spaventato dall'arrivo di Astre Fiammante? Si nasconde per origliare la regina della notte e chiede a Pamina notizie del giovane che aveva inviato a liberarla, e va in collera quando apprende che si è unito agli iniziati, poiché lei non può nulla contro Sarastro da quando il suo sposo, in punto di morte, quindi il padre di Pamina, lasciò a lui il cerchio del sole dai sette raggi. E qui ci siamo al conquibus. E qui chissà, e poi chissà cosa si sottintende. E chissà perché. Cosa avrà voluto dire? Ma chi era poi? cosa avrà voluto dire con questo cerchio del sole dai sette raggi? Ma chi era poi il padre di Pamina? Madre sempre certa. Padre chissà. Consegna a Pamina un pugnale perché sia lei ad uccidere Sarastro, minacciando di maledirla se non farà ciò che ha ordinato. Proprio la mamma, comunque, vai mamma. Madonna, ste mamme. La regina della notte se ne va e Monostato, avvicinatosi a Pamina, le minaccia di rivelare l'intrigo a Sarastro se lei non lo amerà. Capito? È un ricatto. Sì, e qui abbiamo la famosissima aria. Lei, perché la regina della notte è imbelvita, c'ha il berserk, gli è proprio salita la Madonna, non me la dovevi fare! C'è la carogna della carogna sulla carogna. Sì, proprio, guarda, che poi fino a quel momento, poverina, lei non era particolarmente... No, è che comunque la figlia si è fatta rapire, sto sette stelle... L'altra lì, doveva essere il suo eroe. Sette raggi, niente, è sparito, l'eroe che ha mandato... si è venduto alla confraternita, cioè, subito così. Cioè, comunque, povera donna. Sì, lei è in Belvia, siamo un po' perché la regina della notte, siamo un po' la regina di cuori esatto. Tagliatele la testa. Esatto, di Alice nel Paese delle Meraviglie. È sì. Imbestialita. E qui ti tira fuori, però ti tira fuori il meglio del meglio, perché beh sì, ti fa la famosa aria della regina della notte, der Hollerach Nacht in meine Herzen, ovvero la vendetta dell'inferno ribolle nel mio cuore. Capito? Tante volte c'era un dubbio. No, sapevate, ce lo siamo levato. E allora qui c'è, vabbè, le interpretazioni si sprecano, chiaro, tutte bellissime, chiaro, devo dire, eccetera. Io ho scelto questa della Deutsche Grammophon di questa Patricia Petitbon, che è una, la Petitbon, che è un soprano francese piuttosto giovane. Vi invito a guardarvi il video, basta che cercate Regina della Notte, Patricia Petitbon, Deutsche Grammophon e la trovate. È un attimo. È un attimo, solo 5 parole su YouTube. E no, perché è bellissimo il video, secondo me vale veramente la pena, perché ci sono loro, tutta questa orchestra con lei, e stanno registrando, e non sono live, stanno registrando l'audio, quindi sono in ciabatte praticamente con bigodini, con la felpa, e sono stupendi perché stanno facendo una roba difficilissima, bravissimi, sono tutti bellissimi, lei è stupenda, e proprio lei è una di noi, con bigodini, spettinata, esatto. Così fa delle facce come noi la domenica, cioè voi non ci vedete, esatto, tipo meno male per ora non è passata la banda e qualcuno ci vede, perché se ci vede non passerà perché... soprattutto per noi, perché se ci vedete la domenica, ragazzi, oggi è Pasqua, siamo già un po' più rifiniti, no, il bello è il fascino della radio, che tu senti la voce, ti immagini, ci lanciavate, adesso non è che mi devo vestire anche per andare alla radio, vedere. E quindi sì, e loro sono così, e sono bellissimi perché sembrano proprio in mercato la domenica così, e fanno e delle robe meravigliose. È così. E quindi vi invito a guardarlo perché insomma, sì, senza vedere il video un po' rende un po' di meno. Secondo me bellissima interpretazione, Patricia Petitbon è bravissimissimissima. E ascoltatela, secondo me non bisogna dire altro, perché tanto appena sentite qui, 3 secondi la riconoscete. Sì, anche i più duri tra voi. Sì. Sentiamocela. Direi di sì. E tra l'altro io, appunto, si diceva fuori dai microfoni, io adoro le interpretazioni che, oltre a arrivare a quelle vette chiaramente di altitudine che sono Sì. evidenti a chiunque, cioè evidente a chiunque la difficoltà, però riescono anche a colorare bene nelle tonalità basse, perché comunque è un'area che la sua difficoltà non è tanto arrivare in alto, anche se può Ma sembrarlo. andare dal basso all'alto e Andare viceversa. dal basso all'alto e colorare dare la stessa importanza anche al basso, perché la sua bellezza è appunto questa La forza, tonalità. e non riesce a avere la stessa incisività se dà importanza soltanto alle note alte. È Non solo, molto ma poi bello lei il qui timbro. non è per niente leziosa, cioè è Sì, molto, molto pulita. A me piace sì. molto questa Infatti cosa. dovete vedere la faccia che Un po' fa. allevare, no? Sempre, molto poco barocca, cioè molto, molto, molto incredibile, veramente delle più belle. Molto bella, e tra l'altro io invece volevo citare sempre la versione che ho visto all'Opera, Teatro dell'Opera del Duomo, sì, del Duomo, Teatro dell'Opera di Firenze, che in quel caso la regina della notte era Olga Pudova, che devo dire era bravissima anche lei, anche perché, dopo magari parleremo dell'allestimento che hanno fatto loro, ma la poveretta. Cioè, Era perché normalmente ora, parliamone, cioè, il soprano che deve fare quest'opera sta sta posizione canonica appollaiato con in tutte le cima. braccia staccate dal corpo in modo che il diaframma possa stare il più libero possibile, Sì, cioè, se no devi c'ha stare in pilastro, stai comodo, insomma, perché sennò poveri. Questa poveretta imbrigliata e gli avevano stava fatto. praticamente tutta accovacciata su sto divano, cioè praticamente stava tutta piegata Mamma mia. in ginocchio, piegata su sto divano, e ha fatto tutta st'aria così, praticamente col diaframma spiaccicato completamente, e ha fatto comunque un'esecuzione incredibile, bellissima. Questa scelta registica, insomma, gli avevano voluto bene a Sì, lei. veramente Ma sadici, però bellissima. Lei è bravissima, io mi stavo alzando in piedi, brava, brava. Perché, rifiangeva, sì, perché mamma fazzoletto. mia, cioè, d'un masochismo, però effettivamente era bravissima. La volevo citare Sì, perché perché se lo solitamente merita. l'iconografia classica che c'è poi anche nella famoso bozzetto che guardavamo anche prima del 1815 di Schinkel, l'apparizione della Regina della Notte, no? Il guazzo per la scenografia che è appunto quello con la volta blu tutta stellata e la Regina della Notte sopra la falce di luna, però è in piedi, appunto di solito nell'iconografia lei sta in piedi in questa che è una delle aree più famose del mondo, tipo della storia, Ma insieme perché devi veramente a prendere. Nessun Dorma, Ma penso questa sì, qui, cioè. devi prendere fiato e tenerlo per 6 ore, cioè è chiaro che hai bisogno un attimo di essere aiutato. E invece no. Vedi? Sempre più difficile. Dunque, eravamo rimasti che appunto la regina fa questo suo intervento e dopodiché mi sono persa. Ah sì, fa l'intervento appunto la famosa l'aria della regina della notte e se ne va. Monosta, come vi dicevo, minaccia e ricatta Pamina di rivelare l'intrigo appunto della madre a Sarastro se lei non lo amerà. Sopraggiunge il mago che dopo aver scacciato Monostato si rivolge paternamente, già qui la seconda volta lo diciamo, insomma, cosa avremmo voluto dire, a Pamina e le spiega che non si vendicherà perché solo l'amore, non la vendetta, conduce alla felicità. E qui, vabbè, ci sono un po' di livelli. Vediamo, ecco, C'è cioè, chi la dipende, pensa so così, chi non la che, pensa così, vabbè. comunque, con un po' di vendetta, come diceva il nostro caro Guzzanti, chi è? Sono l'amore. No, come per citare Robertetti, no, l'amore più forte dell'amore, Mike Tyson. Per cui, non lo so, vediamo, ecco, anche la vendetta potrebbe essere un'alternativa. Prosegue intanto il percorso iniziato di Tamino. Iniziativo di Tamino e Papagino, che tutto questo ci è stato buttato dentro, ma lui veramente non ne voleva sapere una mezza, al quale si rivolge una vecchina, la vecchia, innamorata di lui. Se siete stati attenti alla prima parte della trasmissione sapete già dove andiamo a parare. Afferma di avere 18 anni, quindi preciso, E insomma, la Papageno macerata. rimane un po' E perplesso. vabbè, dice, vabbè. Si avvicinano anche i tre ragazzi, quindi i tre fanciulli, su una macchina volante, che ora detto così qui. si intende una macchina scenografica, non una macchina. Io già mi immaginavo tipo la macchina di Sì, Grease. la Mari già si chiamava la DeLorean, ma non La è così, DeLorean. esatto. Si avvicinano anche i tre ragazzi su una macchina volante che restituiscono loro rispettivamente il flauto e il carillon di Campanelli e portano da mangiare, meno male perché sennò qui. Insomma, Insomma, è un po'. Pamina cerca di parlare a Tamino, ma il giovane, essendo ancora sottoposto alla prova del silenzio, non può risponderle. Lei crede che non l'ami più e, colta dal dolore, medita il suicidio col pugnale della madre. E qui siamo proprio sullo tipico archetipo delle fiabe sadiche. Un po' alla tragedia greca. Ma viene fermata dai tre fanciulli che le confidano che Tamino è ancora innamorato di lei, è solo che ha fatto sto voto, insomma, prova del silenzio, non può parlare. Papaghino ha infranto intanto la regola del silenzio, perché figurati che gliene fregava a lui, è al cuore. Quando scivoccio. Non può più continuare la prova, non potendo ora più godere delle gioie celesti, gli viene concesso il piacere terreno di una coppa di vino rosso e dell'amore di quella vecchia, la vecchia di prima. Capito? Improvvisamente si tramuta in un'avvenente ragazza di nome Papaghina, la quale però subito gli viene sottratta. Però vedi che tu un sadismo comunque. Sì, ma perché lui stava facendo la prova, interrotto, non è che si può avere subito. Bam, punizione. Ecco, è un attimo. Pamina decide invece di accompagnare Tamino nel tentativo di superare le due successive prove dei quattro elementi: l'attraversamento dei sotterranei del tempio e la purificazione con l'acqua, la terra, l'aria e il fuoco. Pamina gli svela l'origine del flauto magico, che fu intagliato durante una tempesta da suo padre, il gran maestro di una confraternita solare. Proprio. Che qui ci vorrebbe. Grazie al suono del quale ora essi, protetti da una piramide di energia. No, ragazzi, cioè, non è che ho mangiato troppo uovo, è così, ve lo giuro, cioè, non è che io la piramide di energia è proprio Dragon, esatto, Ball. Non è che adesso io vedo i mostri, ve lo sto leggendo, quindi possono rimanere indenni contro le forze astrali che si scatenano su di loro. Superando infine la prova, vengono fatti entrare nel tempio nel coro di giubilo dei sacerdoti. I sacerdoti stanno sempre lì pronti a fare il coro. Ma aspetta, perché mi sono distratta e ho paura che ci siamo persi l'aria. Sono andata avanti, perché sono un po'. Sono andata avanti. Allora, no, aspetta, torniamo un attimo indietro. Sì. Torniamo un attimo indietro a quando Pamina era disperata. Pamina è disperata, è l'aria di Pamina. Effettivamente mi dovevo fermare. Ce la siamo mangiata, perché in effetti c'è questo punto che è importante, perché questo fatto che Tamino c'ha sto voto del silenzio e non può parlare, e lei arriva lì, niente, lui non se la considera. Dire, lei dice, vabbè, ma lei allora rimane male e fa, ma come? Ma io pensavo, e lui, niente. No. Quindi Lash rimane malissimo, si vuole ammazzare e l'opera sembra volgere al peggio. Alla tragedia. E sì, e noi qui dobbiamo tornare indietro, siamo dovuti tornare indietro perché è da ascoltare questo pezzo, perché è una delle aree più belle, secondo me, non tra le più conosciute, cioè nel senso le altre che abbiamo sentito più famose lo erano molto di più, però insomma questa è veramente bellissima, sicuramente la più bella di Pamina, ed è Ach, ich fühl's. Ovvero, mi sembra che la gioia dell'amore. Vabbè, senso, questi modi di dare i nomi alle aree. Io vorrei trovare caso. Quello che è come quello che traduce i film, i titoli dei film. Sì, che li fai? Che piglia le prime tre parole a caso. No, va trovato una volta. Insomma. Sì, e beh, sì, ve la farei sentire in una versione che in realtà non mi ricordo assolutamente più chi è l'interprete, non me ne vogliate. Ma no. Però. Secondo me, io sono veramente pignola su quest'area, però è piuttosto buona, insomma, e quindi mi sento di poterla condividere con gli ascoltatori e le ascoltatrici. Come magnanima lei. Della fuga del gatto. Io solo il meglio vi riservo. È una ragazza magnanima. Certo. Quindi sentiamocela, va? Va. Thank you. Questa, tra l'altro, era forse l'area, l'unica area veramente triste, sì, tristona. Tristona. Bellissima, secondo me. E a questo punto avevamo saltato, ci siamo ritornati, sì, e ritorniamo dove eravamo rimasti. Esatto, eravamo rimasti appunto, Pamina accompagna Tamino nel tentativo, dopo che si sono ritrovati, appunto dopo quest'area di disperazione, poi lei capisce che lui aveva fatto il voto del silenzio, insomma lo accompagna nel tentativo di superare le due successive prove dei quattro elementi, attraversano i sotterranei del tempio, la purificazione con l'acqua, la terra, l'aria e il fuoco. Pamina appunto di svelare l'origine del flauto magico, che, come vi dicevo, fu intagliato durante una tempesta da suo padre, che era maestro di questa confraternita solare, e grazie al suono di questo flauto magico loro sono protetti appunto da questa energia e possono rimanere indenni. Intanto Papagino, sconsolato per la scomparsa di Papagena, vorrebbe impiccarsi a un albero, perché comunque il ragazzo così l'ha presa male. Ma viene fermato. Cioè, c'ha delle emozioni un po' estreme, diciamo. Passa da un estremo a un altro. Sì, è un ragazzo un po' ruspante. Ma viene fermato in tempo dai tre genietti, che lo esortano a suonare il carillon, il famoso carillon che lui ha avuto in dono. Appena lo suona, riappare la sua innamorata, che finalmente gli si concede. E qui, finalmente, Papagino ha quel che si merita, giustamente. Ovvero la sua papagena. La sua papagena. E quindi c'è quest'area, anch'essa veramente famosa. E è un duetto tra Papageno e Papagena, tra, nel particolare, quindi nell'interpretazione, che è un'interpretazione del 2006, quindi piuttosto recente, tra Irina, oddio, Bespalovaite, chissà che nome è, vabbè. Che è Papagena, ovviamente, Christian Gerhacher, chissà, che è Papageno. E questa è l'area super famosa che adesso vi resterà in testa per tutta la settimana. Di applausi, un po' di applausi ci volevano d'altra Bravo. Parte, finora ancora non ve l'avevamo fatti sentire. No, bravi, bravi, bravi. Questi erano Papageno e Papagena. Sì, e che felici e contenti duettavano. Si ritrovano, questa è una delle mie preferite, veramente mi piace un sacco quest'area qui. E, siamo rimasti appunto, loro si ritrovano. e siamo al finale. Il finale siamo alla fine, sta avvolgendo tutto al bene. Finale, lo scontro finale, perché dopo che loro si ritrovano, appunto, arrivano Strefiammante, le tre dame e Monostato, che nel frattempo si è unito perché vuole uccidere Sarastra e impossessarsi del suo regno, perché è rimasto fleppato comunque con Pamina, non è che proprio se l'è scordata. Un terremoto però li fa inabissare, cioè così, un terremoto veramente alla Lost, Deus, cioè, ex machina. Qui proprio si ringhiotte e così si celebra la vittoria del bene sul male. Pamina e Tamino vengono accolti nel regno solare di Sarastro e l'opera si conclude col coro finale dei sacerdoti. Sì, noi in realtà ci ascoltiamo due arie, una è il quadro, no scusate, non due arie, e prima di sentirci l'ultima aria ci ascoltiamo il quadro 6, sì, che è uno strumentale. Prove dell'acqua e del fuoco, perché nel frattempo vi ricordate che Tamino aveva affrontato le prove dell'acqua e del fuoco, eh? Esatto. Doveva affrontarle. Esatto, ed è uno strumentale in realtà... piuttosto importante, anche se si è buttato un po' lì, ma insomma niente casuale in Mozart, dove ascolterete in particolare il flauto principale molto importante, che poi guida un po' tutta la melodia, di Barbara O'Brien. In particolare questa è l'opera Pittsburgh Opera Orchestra e beh sì, dura pochi minuti, quindi due minuti appena, sentiamocela e poi arriviamo al gran finale. Strumentale proprio per niente. Ok, no, perché qui è tutta una questione di quadri e ci si confonde, perché ogni atto c'ha un tot di quadri, ogni quadro c'ha un tot di scena e noi non sappiamo contare. Casino. Ragazze, è un po' così. E quindi questo era Il sole e la splendida araldo del mattino? Oddio, aspetta. No, sì, sì, cioè, no. Che è nel quadro delle prove dell'acqua e del fuoco, giusto? No, scusami. No. È il no, questa era la prova dell'acqua e del fuoco, vittoria del bene. Ah, ok. E la prossima, che comunque ci sentiamo, è l'ultima aria che ci sentiamo, è Il sole, la splendida araldo del mattino. Ah, figura, quindi addirittura dove ce l'avevo scritta io le metteva invece prima numero 22, Il sole e la splendida araldo del mattino, e poi 23, Stretta del finale, Nur stille, stille, stille. È un casino. Dolcemente, è dolcemente, casino. Dolcemente. E invece no, questo stile, stile, stile dovrebbe essere dopo. Niente, vabbè. Che è la vera, vera finale. Monostatos, che c'è Monostatos, la regina, il sarastro e il coro. Esatto. I potenti. Ok. Ma invece no, noi ci ascoltiamo i tre fanciulli con Pamina e Tamino. Il sole. E la splendida Araldo del mattino. Vabbè. Ci piace quella. Ero giusta in parte, vabbè. Esatto. Dai. Quindi io direi, prima di farvi sentire l'ultima, vi, che ve la lasciamo sfumare per salutarci, vi diciamo un po' le ultime cose anche, su quest'opera. Sì, vabbè, ci sarebbe ancora tantissimo da dire. Però adattamenti famosissimi ovviamente sono stati tratti da questa opera, vi potete immaginare, dipinti, ma proprio a livello anche libri di illustrazioni, adattamenti per i bambini, però insomma anche adattamenti proprio di un certo livello, perché Bergman contribuì a rendere ancora più famosa quest'opera adattandola per il film omonimo del 75, proprio col titolo originale svedese Trollflöjten, il flauto magico. E che è rimasta poi quella più conosciuta, insomma, la versione cinematografica proprio dell'opera, l'opera, loro cantano. Sempre Bergman, inoltre, utilizzò un frammento dell'opera nel film L'ora del lupo del 67. E cantano in svedese, però. Cantano in svedese. Bizzarria. Sì, cantano in svedese. E Luzzati e Giannini ne hanno realizzato un disegno animato nel 78. E Kenneth Branagh, tanto perché se no non è contento, ha realizzato una nuova versione cinematografica ambientata durante la Prima Guerra Mondiale, che fu mandata in programma alla mostra del cinema di Venezia nel 2006. E ecco, questi sono tra i più accreditati, diciamo, tra gli adattamenti più famosi, ma insomma ce n'è veramente tantissimi, anche perché dovete pensare che è stata una delle opere più veramente messe in scena. Io vi posso raccontare al volo dell'adattamento, cioè la rappresentazione che appunto ultima che ho visto qui a Firenze, che effettivamente io vi devo dire, non amo spesso gli adattamenti in chiave moderna, questo mi è piaciuto perché effettivamente lo rendeva piuttosto intellegibile. Era essenzialmente ambientato in una scuola un po' ovviamente surreale, conservava comunque molto il carattere surreale, un po' fiabesco. C'era questa scuola, Tamino era uno studentaccio, un po' discolo, Papageno era il bidello, e Papagena poi si scopre essere la bidella, e fanno tanti papagenini che sono tutti dei piccoli bidellini, tutti con la scopettina in mano. I bidellini. Sì. E poi c'è la regina della notte, che è la madre bigotta cattolica di Pamina, che anche lei è una studentessa che viene rapita e portata via dal direttore della scuola, che è Sarastro. Proprio una versione un po' così. E poi c'è, però in realtà alterna fasi un po' in realtà surreali, dove loro a un certo punto si ritrovano in questi boschi, fra l'altro scenografie veramente veramente belle. Ma insomma, non era un'opera del Maggio, era un'opera in... Allora, è in collaborazione, l'orchestra del Maggio, però in l'opera era... collaborazione col Teatro della Fenice di Venezia. Ah, ecco. E l'allestimento era quello, e tra l'altro aveva già girato alla Fenice per l'appunto. La regia di Damiano Micheletto, il direttore dirigeva Roland Boer. Eh sì, in realtà secondo me non era niente affatto male, vi devo dire, l'ho apprezzata. E anche perché sì, io non lo so, io ho un po' questa teoria, ne abbiamo già parlato anche per l'Armid. Loro di fatto, cioè un'opera come il Flauto Magico, rappresentata nel Settecento, quando il fulcro del dibattito era l'illuminismo, certo. E quello, è chiaro che ti arrivava, certo. Che potevi parlare di Papageno, di Zoroastro e quello, ma si capiva dove voleva arrivare, certo. La metti in scena adesso nel 2017, non si capisce, non ti arriva, o perlomeno se tu sai già di cosa stiamo parlando, lavori, certo, che arriva, ma uno che la va a vedere così, l'equivalente del tempo, non gli arriva veramente, gli arriva la simbologia magari ad altri livelli, però insomma non capisce fino in fondo. Invece in questa maniera effettivamente poteva avere un po' lo stesso impatto diretto che magari aveva nel Settecento, nel senso che effettivamente cioè, tu lo capisci molto velocemente. Beh, certo, le metafore sono sempre contestuali al periodo storico, quindi ovviamente se tu fai una metafora adesso, usi una metafora, una figura, appunto, un archetipo adesso, e il riferimento è diverso, quindi... Ovviamente c'è il rischio di minimizzare, no, certo, di banalizzare alcune cose, semplificarle. Io non sono, però... ecco, io non sono una super amante del contemporaneo per forza, anche quando fanno le opere, proprio, hai visto tipo la Traviata anni 50 con la televisione, cioè non sono proprio, anche perché a volte mi sembrano un po', però invece mi piace molto quando riescono a dargli un taglio, tipo appunto, non so, Wagner fatto dalla furia del Baus, ecco, pazzesco, perché secondo me ci sono dei modi, cioè ci sono delle chiavi interpretative contemporanee che si adattano molto bene allo spirito, quindi non è tanto un contemporaneizzare l'immagine esteriore, ma quanto trovare un taglio che, come dicevi te, è coerente con lo spirito iniziale dell'epoca, che aveva una certa forma in quell'epoca e adesso ne può assumere un'altra. Esatto. Quindi non è che basta mettere la gente in abiti moderni, contemporanei, è già risolto, no? Per essere, no, è ovvio che non, anche perché basta, molto spesso, cioè, queste operazioni taglio, sono forzate, perché proprio ha trovato un taglio, secondo me, che si adatti alla natura stessa dell'opera. E quindi non basta, sì, appunto portarla nel contemporaneo, piuttosto che, appunto, non lo so, non l'ho vista questa di Branagh, ma ho visto un Franco Cacciatore di Weber ambientato nelle trincee della Prima Mondiale, bellissimo, perché appunto tutto questo aspetto favolistico del bosco, delle prove, perché assomiglia molto, era tutto trasposto alla guerra, invece all'orrore della guerra, e per esempio funzionava in quel caso, era piuttosto funzionale, così come appunto la furia del Baus con la trilogia dell'anello di Wagner. Secondo me ci sono dei casi in cui uno trova, però bisogna essere bravi a trovare, ecco. Certamente, sono d'accordo. Sì, sì. E basta, e altre cose, sì, curiosità, no, c'era gossip? Da dire appunto che alla fine, appunto, la figura che si dicevano prima, no? Papagino, Tamino, entrambi rappresentano il Sarastro e la Regina della Notte, che rappresentano l'autorità e l'ordine, mentre Papagino, che non supera le prove iniziatiche, ma se ne frega fondamentalmente, non gli interessa, tanto il suo fine è l'amore, quindi di fatto non vuole nemmeno bene o male avere un percorso, l'uomo di tutti i giorni, che è capace di servire allo stesso modo la Regina della Notte, Sarastro, perché di fatto serve se stesso, cioè serve la sua di causa, e consapevole che la bontà e la felicità, seppur materiale, stanno dalla sua parte. Quindi è interessante, no, come Papagino si contrappone a Tamino, che invece è tutto molto celebrale, no? Un po' questo principe molto celebrale, che però poi è anche... Un po' incartato, un po' bloccatino, non capisce mai, appunto. È interessante, di nuovo, come si diceva prima, le sfaccettature, cioè, no, quella che all'inizio sembra il cattivo e poi lo è, non lo è, fino a un certo punto la Regina della Notte, sì, che rivuole una, però di fatto tiene la figlia, no? Insomma, la usa per i suoi scopi, e quindi è interessante vedere come poi non tutto è bianco e nero, ecco. No, in Mozart è assolutamente tutto molto in più generale, complesso. Infatti è interessante per questo, insomma, rispetto a altre opere un po' più così chiare, no? E, sì, bene, quindi abbiamo il finale, giusto? Abbiamo il finale, vi lasciamo con questo, e prima di lasciarvi vi ricordo velocissimamente, perché stiamo sforando, i nostri social, Wombat, che sono il sito wombat.noblogs.org, che ormai dovreste conoscere a memoria, dovreste avervelo tatuato in fronte, la pagina Twitter, twitter.com/radiowombatfi, la banale pagina Facebook, facebook.com/radio-wombat-Firenze, e la casella di posta wombat@insiberia.net. Mi raccomando di tenere sempre presente, non è che siamo scemi e ve li ricordiamo per caso questi social Wombat. Sì, siamo anche un po' scemi, però anche sì, è un po' ossessivi, ma è perché ci teniamo a un po' un feedback anche da voi, per sapere. Scoprivateli, sì. Sì, se no non ci date soddisfazione, che ne so, siamo qui dietro a un microfono, mica sì. lo sappiamo se stiamo parlando da sole. Esatto, se di là c'è qualcuno, noi parliamo nessuno. Comunque tra di noi, perché tanto poi siamo così, però insomma, se c'è qualcuno che ci ascolta, più, ci fa sì, anche un po' più piacere. Poi siamo qui con le nostre bambole, gli orsacchiotti, facciamo il tè, esatto. Però ecco, se c'è qualcuno anche che ci dice, oh ma interessante quella cosa, oppure ma che ci sentiamo di esistere, un po' ammetteremo, ma se qualcuno ci ascolta, no? Nessuno ci ascolta, esistiamo o è... Eh sì. E si apre un capitolo. E infatti la fuga del gatto, il teorema del gatto nella scatola. E vabbè, mi fermo qua. E il gatto imburrato. Oggi è così. Bene, è così. Bene. E col gatto imburrato chiudiamo questa sì. puntata di oggi della fuga del gatto, sempre su Radio Wombat, sì. Wombat Radio, come preferite. Grazie ai nostri ospiti, numerosi gli ospiti nascosti oggi. E grazie alla co-conduttrice, come sempre, che non so dire. Figuri. È stato carissima. Un piacere, è vero. Vi diamo appuntamento a domenica prossima, sempre intorno alle 6, se non siamo puntuali, come al solito, perdonatecelo, ma vorrei vedere voi a fare la trasmissione di domenica. E vorrei dire grazie a chi ha pulito la regia, veramente ecco. Un grande grazie, è apprezzato, è bella, apprezzata, veramente, sì, sì, pulita sì. Profumata, grazie, e chi lo sa, lo sa, cioè chi l'ha fatto lo sa. A domenica prossima, ciao ciao! Ciao a tutti! Thank you.